Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Conte deve ricordare che forse prende 1.000.000 al mese. La domanda giusta da fargli è: per far cosa? Forza Inter sempre, Conte out. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. A fine stagione dirò quello che non mi è andato bene, ma qualcosa già l'ho detto. Saranno fatte delle votazioni. Protezione zero assoluto a calciatori e allenatore. No, ma io volevo dire che qua bisogna un po' incazzarsi con questo qua. È colpa del calendario, il club non ci ha protetti. Ma ha perso 2 partite con la Juve. Le scuse del calendario e tutte queste cose qui le lascerei a parte, però essere incazzato nero secondo me lo dovrebbe essere, perché quest'anno ha avuto la possibilità di poter giocarsela con la Juve. Questo penso che a Conte bruci tantissimo. Ragazzi, basta con questa favola del grande allenatore Conte. Non ha mai passato un quarto di finale nella sua vita in nessuna competizione, tranne in una UEFA in cui si è suicidato. Certi presunti sportivi si prendono la briga di telefonare e parlare a Radio 24 dicendo Conte non è un grande allenatore perché non ha vinto in Europa. È evidente che questi qua neanche sanno Conte il suo percorso. Conte è un grandissimo allenatore e con ogni probabilità il più bravo italiano in questo momento. Noi però vi invitiamo lo stesso a chiamare, a lasciare i vostri WhatsApp audio, sia che siate per il Conte out che per il Conte in. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Vi ricordo, come da programmazione di tutto questo mese di agosto, vi teniamo in compagnia fino alle 15.30, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, sms e WhatsApp, anche vocali. Oggi puntata ricchissima, c'è il giorno 2 del tormentone Antonio Conte, vi daremo tra pochi istanti gli aggiornamenti proprio degli ultimi minuti. Vi annuncio già che alle 14.30 avremo Davide Nicola per celebrare la salvezza del Genoa, poi ci sarà il valzer delle panchine, è ufficiale da questa mattina di Francesco, contratto biennale al Cagliari, prende il posto di Zenga. Alle 15 parliamo di Formula 1 con la Domenica delle Gomme Scoppiate e poi parliamo anche di Ciro Immobile, del suo record e del futuro della Lazio. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, se mi dai il radio tweet di oggi. Ah, allora, il radio tweet sono di accorpo perché volevo fare rivolgere due pensieri. Uno è proprio per Ciro Immobile, perché nei numeri c'è sempre la verità. È vero che lui probabilmente nell'esperienza all'estero non ha fatto benissimo, ma è anche vero che ha contribuito a trasformare la Lazio veramente in una grande del calcio italiano. La continuità che ha avuto negli ultimi 4 anni è incredibile. Quindi questa è la prima dedica. La seconda è per un'immagine che mi ha emozionato, è quella di Bonaventura, che non conosco personalmente, ma mi sembra veramente un bravissimo ragazzo, oltre che un grande giocatore. Un giocatore che secondo me ha avuto una sfiga mostruosa con gli infortuni, che penso abbia ancora parecchio da dare. È uno di quei giocatori che quando sta bene è veramente di altissimo livello e può fare la differenza. Insomma, vederlo l'altro giorno a San Siro emozionato mi ha emozionato. Oggi giorno 2 dello psicodramma interista. Saluto Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. E Tommaso Labate. Ciao Tommaso. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, seduta aperta, oggi le prime pagine dei 3 quotidiani sportivi italiani. Conte ora basta, c'è il rischio divorzio, il piano B Allegri, Antonio pensa alla Juve, punto di domanda, questa è la Gazzetta dello Sport. Conte, lungo addio, il Corriere dello Sport. panchine bollenti, tutto sport, aggiornamento degli ultimi minuti. L'Ansa un'oretta fa batteva che ad Appiano Gentile c'è la dirigenza, ma al momento non c'è stato alcun confronto. E mentre la squadra sostiene l'allenamento prima della partenza per la sfida col Getafe, la dirigenza avrebbe lasciato Appiano per rispettare gli impegni UEFA. Certa stessa tesi sostenuta da Sky qualche minuto fa, dunque nessun confronto tra Marotta e Antonio Conte. Io voglio sapere da Tommaso Labate da che parte sta. Io sto dalla parte di Conte, come sapete, ve l'ho detto in tempi non sospetti, io sono qui nelle vesti di tifoso e come potete ben sapere, visto che ho parlato più volte da voi, esattamente un anno fa non è che me ne morissi dalla voglia che Conte diventasse il nuovo allenatore dell'Inter, se non sbaglio vi avevo, diciamo, a mo' di battuta sottolineato che con il cuore di tifoso avrei preferito Mauro Sandreani. Però detto questo, nel corso dell'ultimo anno io ho visto questa squadra avere uno smalto, una grinta che non avevo riscontrato in altri anni, addirittura uno spirito che andava a lambire un pezzo di Inter dei triplete, per cui l'innesto di Antonio Conte dentro l'Inter è stato un innesto di successo, testimoniato soprattutto dei numeri. Avrà sbagliato le uscite? Perfetto, sono perfettamente d'accordo, però io sono quasi certo che se Conte e la società supereranno questo momento, per i tifosi dell'Inter si inaugurerà un ciclo di grandi soddisfazioni, ciclo che ovviamente dovrebbe riassettare le lancette e l'orologio al zero qualora dovessimo sperimentare per l'ennesimo anno di fila un altro allenatore, magari un altro allenatore che viene dalla Juventus. Sì, ciclo, questo però è un mio parere, Pierre, adesso voglio sapere cosa ne pensa Andrea Di Caro, che è difficile ricostruire sempre partendo dalle macerie, che sembra essere una delle grandi condanne storiche, cicliche, tradizionali dell'Inter, no Pierre? Sì, cioè secondo me segue l'espressione anche un po' meno, ecco, anche un po' meno, nel senso che Conte ha fatto... Cioè non è necessario tutte le volte distruggere tutto per farci sopra un ciclo nuovo? Sì, no, ma soprattutto con le dichiarazioni, io sono contiano, nel senso che penso, e lo dicevo veramente in tempi non sospetti, ad esempio dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli, che l'Inter quest'anno abbia fatto un grande passo avanti, e in questo passo avanti c'è l'investimento della società, ma anche la qualità dell'allenatore che ha portato tanto. Quindi secondo me in un mondo normale uno dovrebbe valutare questa stagione come un passaggio importante di crescita e di avvicinamento verso il vertice. E poi però ci sono quelle dichiarazioni dell'altro giorno che non possono essere a impatto zero, che secondo me non aiutano. Io non so se ci sia dietro, come ascoltiamo Di Caro, se ci sia dietro la tentazione di andarsene o di farsi mollare, però ecco, non aiutano, soprattutto dopo una partita così bella, così importante, dove l'Inter ha abilitato il secondo posto, con un impegno in Europa League fondamentale. Io capisco la strategia della tensione all'interno dello spogliatoio della società in certi momenti può essere utile per mantenere alto un certo livello di intensità, però qui il rischio è che ogni volta invece ci sia il cortocircuito. Benissimo il carattere di Conte, è uno stimolo, lo sappiamo, però è un atteggiamento costruttivo? Questa è la domanda che faccio, la faccio dopo anche a Tommaso, ma intanto sentiamo Andrea. Se stai con Conte o contro Conte, Andrea? Ma se è costruttivo non lo so, magari lui lo vuole anche esprimere così, anche in modo, nella sua testa, costruttiva, ma poi invece la sintesi diventa distruttiva, perché l'Inter già veniva da due anni di Spalletti che alla fine erano stati logoranti, perché anche Spalletti alla fine di ogni partita, che vincesse, che pareggiasse, che perdesse, era una litania continua, vedeva nemici dappertutto, mentre Mourinho sentiva il rumore dei nemici e compattava però l'Inter nella sua totalità, Spalletti prima e ancora di più Conte adesso invece i nemici dividono più all'interno che all'esterno, e questo non va bene. Io non si tratta di stare con Conte o con la società, perché qui la società non ha fatto niente, cioè viene invece continuamente infilzata dal suo tecnico. È semplicemente da dire che nessun dipendente, neppure il più importante e strapagato come Conte, può permettersi in diretta TV ogni post partita di sculacciare pubblicamente la sua dirigenza, la sua proprietà, i suoi dirigenti. Cioè non funziona così da nessuna parte. Non è l'Inter che lavora per Conte, è Conte che lavora per l'Inter. Sì, anche se Conte è sempre stato questo, cioè prendi Conte, prendi il pacchetto completo e sai che è un allenatore che vuole anche essere manager sul mercato, ma anche ad esempio indirizzare la comunicazione del suo club. Sì, però, insomma, però, immaginare che sia tutto un blocco unico che sta però, con lui. Perdonami, non è che Conte può commissariare l'Inter, se no Conte è una società, se la compra e fa pure il presidente, però se la deve comprare, deve essere sua. Allora, o tu hai un incarico ben definito per cui ti fanno fare il direttore sportivo, il direttore tecnico, l'allenatore, il responsabile della comunicazione, e allora fai quello. Se vuoi quel tipo di incarico, puoi andare in società e chiedere, pretendere, provare a convincere, dopodiché tiri una bella linea e capisci se in quell'ambiente ci stai bene, sei a tuo agio, i progetti sono comuni, oppure puoi decidere di andartene. Quello che secondo me non puoi fare, perché proprio non si può fare, è andare davanti alle telecamere in fine partita e tirare praticamente palate di fango senza poi fare mai nomi e citare, non si capisce se si riferisce a Ausilio, a Marotta, a Zang. Chiaramente io immagino che lui si riferisca a Anche se, anche se questa volta insomma non ha messo nomi e cognomi, ma era tutto abbastanza chiaro. Chiedo anche a Tommaso, perché quando dici tutti quelli che sono fuori dalla pinetina non possono salire sul carro, di fatto ci circoscrivi in maniera abbastanza chiara, no? Beh sì, assolutamente. Io fra l'altro sono molto d'accordo con l'analisi di metodo che ha fatto Andrea Ricaro. È ovvio che Conte, se usiamo i dilemmi dello stare all'interno della società, dove la società può avere la lettera S maiuscola, minuscola, abbia sbagliato, sia uscito fuori le righe. Però guardate, a me la cosa che ha sorpreso di più è stato il riferimento all'allenatore precedente. Facciamo vista che stiamo parlando di politica, no? È come se Zingaretti, arrivato alla guida del PD, superando la fase di Renzi, si trovasse a notare in una conferenza stampa che all'interno di quel mondo esistono gli stessi problemi che evidenziava Renzi. Io a questo punto mi farei una domanda sul fatto che è vero che magari Zingaretti e Renzi sbaglierebbero ad avere una posizione comune pur partendo da approcci completamente diversi. Ma mi farei pure una mezza domanda sul dire, ma se due persone che la pensano in maniera così distante e che sono stati messi dalla storia l'uno contro l'altro, perché quando prendi il posto di un allenatore è ovvio che sei in discontinuità rispetto a lui, pensano la stessa cosa, due o tre o quattro o cinque domande, anche su come viene gestita una multinazionale che agli atti non è che ci abbia riempito la bacheca di trofei rispetto alla gestione familiare tutta italiana, me le farei pure. Sì, io gli chiederei anche Tommaso, questa stessa cosa la si può esprimere all'interno della società con la forza fra l'altro anche dei risultati, perché insomma io credo e lo ribadisco che Conte abbia fatto bene quest'anno, ad oggi non benissimo, non ha vinto nulla, è un buon risultato ragazzi, cioè, l'Inter è cresciuta. Ma secondo me è stato benissimo, non bene, Pier. E poi ci sono un ultimo punto di domanda e con questo mi taccio. Conte, alla vulgata, anche di quelli che comunque sono esperti di queste cose, ha avuto i giocatori che ha chiesto, ha fatto spendere tanto la società e quindi deve non è stato gratis il mercato, gli ultimi due mercati non sono stati gratis. Io vorrei chiedere, per esempio, il mio dubbio è il signor Christian Eriksen faceva parte integrante della lista degli allenatori dei giocatori che il mister aveva chiesto o gli è stato comprato senza che lui lo chiedesse? Perché questo, sull'investimento più oneroso della seconda parte dell'anno, fa una bellissima differenza, secondo me. Sì, però scusami Tommaso, fatemi sentire Tommaso, Andrea, se noi apriamo questo file, se apriamo questo file, allora dobbiamo dire anche a Sarri che non ha la sua squadra, a Fonseca che non ha la sua squadra, a Inzaghi che non ha i ricambi, cioè vale per tutti questo ragionamento. Io credo che in generale la campagna acquisti dell'Inter di quest'anno sia stata guidata da Conte con il suo stile, quindi anche sicuramente, non voglio dire sia stato facile, quando lui l'altro giorno, io so insomma quanto Lukaku lo volesse e sai l'adorazione che ho per Lukaku, che per me è un giocatore totale e oggi un anno dopo capiamo che quella valutazione forse era poco in relazione al potenziale che ha questo ragazzo. Ma come tu ben sai, Pier, come tu ben sai, io su Lukaku avevo idee opposte alle tue e a quelle di Conte, quindi non è che mi viene comodo fare la parte dell'avvocato di uno che neanche volevo, però prendo atto che secondo me si è innestato un possibile red carpet che noi ovviamente possiamo stracciare e trasformare in un tappetino in automobile. Sì, volendo, però io quello che ti dico, quello che ti dico è che secondo me complessivamente l'Inter ha comprato bene e credo che abbia anche comprato dei giocatori funzionali al progetto di Conte. Poi è ovvio che voleva, cioè è ovvio, lo sappiamo, voleva Vidal, però Vidal non è che l'ha comprato la Juve, Vidal è rimasto lì. No, se l'è tenuto il Barcellona. No, però, non c'era la possibilità di prenderlo. Eriksen sicuramente è stata un'opportunità di mercato, secondo me Eriksen a quella cifra è un affare, nessun allenatore ha esattamente la squadra che sogna, è sempre comunque in qualche modo una sintesi tra i desiderata dell'allenatore, le disponibilità economiche e quello che si riesce a fare. A me non sembra che l'Inter di quest'anno sia una squadra, cioè a me sembra una squadra poi ci sono stati dei mercati di gennaio peggiori nella storia dell'Inter, adesso senza parlare di altri club, anche con l'equivoco Eriksen, però volevo coinvolgere ancora Andrea Di Caro perché a me sembra che ci siano due punti di partenza del racconto contiano, Andrea, che non tornano. Il primo, io non ho mai sentito Marotta o Zhang dire che l'Inter doveva vincere lo scudetto quest'anno. L'unico tesserato dell'Inter che lo ha detto è stato Conte, all'inizio della stagione, con quella storia del fare tutto fino all'ultimo punto e alla vigilia del ritorno dopo il Covid, prima della partita con la Sampdoria, quando ha detto vinciamo questo e poi dopo a 6 punti ci divertiamo. E invece Conte dice non sono stato protetto anche nei momenti buoni e sostanzialmente fa capire è stato lasciato ad aspettative che non potevano essere corrisposte in questa stagione, tutti in un anno colmare il gap con la Juventus. E la seconda cosa è che il signore che sta in Cina, lo vedrete dai documenti che arriveranno tra qualche mese, nel frattempo ha messo lì altri 100 milioni per dare all'Inter la forza di continuare a crescere. Mi sembra tutto estremamente sgradevole, no Andrea? Ma io quello che stavo dicendo, insomma, io lo trovo profondamente sbagliato. Io non dico che Conte abbia torto quando sostiene che l'Inter debba comunque crescere anche da un punto di vista societario, però non capisco per quale motivo, per far crescere l'Inter da un punto di vista tecnico, lui giustamente chiede tempo perché l'Inter non vince da 10 anni, però la società invece deve crescere in 6 mesi. Allora, magari Conte ha ragione, sicuramente ci sono dei problemi che l'Inter si trascina, ci saranno i famosi riportini di cui parlava Spalletti, qualche spia interna, perfetto, però quelle sono cose che si decidono all'interno delle stanze, uno si mette là e dice guarda io non gradisco più A, B e C. E dato che in quel caso non è che lui sta parlando di Zhang, ma sta parlando di dirigenti, definiamoli tra virgolette forse minori, magari una soluzione si trova. Però quello che dico è che queste uscite di Conte non arrivano a stagione finita. L'Inter ha un impegno importantissimo in Europa League, l'Inter ha la possibilità di vincere questa Europa League. Fare questa sparata al termine di un campionato che comunque è stato per l'Inter un campionato positivo, anche se io sottolineo che poi i pareggi interni contro Fiorentina, Sassuolo e la sconfitta interna col Bologna non è che l'hanno fatto i dirigenti. Quella è opera di una squadra che se forse avesse vinto quelle partite magari si legava anche a un treno scudetto che invece poi ha perduto. Ma non voglio giudicare negativamente la stagione dell'Inter perché in campionato sarebbe stupido non notare quanto lavoro ottimo certo. Conte ha fatto. Resta però, secondo me, sbagliata sia la modalità, a meno che lui non abbia appunto delle intenzioni già chiare, e poi diciamo questo prendersi i meriti lui e la squadra escludendo gli altri, i giocatori che Conte ha chiesto. Diciamo che Eriksen non era sicuramente un suo pallino, ok, però lui si è ritrovato in questo calciomercato, ricordiamoli, perché sennò sembra che l'Inter è andata a comprare dalla Serie C, della Lega Pro. L'Inter aveva quest'anno, il Conte ha avuto Godin, che purtroppo non è andato bene, ma si trattava comunque del pilastro dell'Atletico Madrid, Sensi, Barella, Lukaku, Sanchez, a gennaio sono arrivati Young, Moses, Eriksen. Quando lui parla di Lukaku e dice non sapete quanto ho dovuto faticare per farmelo prendere, però non è che lui aveva chiesto un giocatore da 8 milioni, ha chiesto un giocatore da 83 milioni, eppure essendo un formidabile attaccante non era in quel momento considerato un top player in Inghilterra, tant'è che nel Manchester United non giocava quasi più, quindi aveva un prezzo molto alto, lo voleva la Juventus, lo voleva l'Inter, è stato bravo Conte a insistere, ma ha insistito e ha ottenuto un giocatore da 83 milioni. Cioè io credo che alla fine l'Inter non è che Conte lo abbia diciamo messo così in difficoltà quest'anno, gli ha costruito una squadra per colmare un gap che lui è riuscito a colmare. Poi ci sono altri problemi da correggere, Ma da qui a far sembrare la società una banda del buco e lui un martire, mi sembra francamente eccessivo. Sì, ce ne passa. Allora, aspetta, Pier, ti fermo, perché adesso dobbiamo inserire il terzo elemento del triangolo. Ho citato prima la pagina della prima pagina della Gazzetta, Antonio pensa alla Juve, Repubblica va oltre. Oggi ha scritto, Franco Vanni ha ribadito anche su Twitter, che Conte, che continua a citare la Juventus come modello, da settimane sente dirigenti, giocatori ed ex giocatori chiedendo se veramente sarà cacciato Sarri, perché la sua volontà è tornare alla Juventus, ma ci sarebbe sempre il veto sul suo nome da parte di Agnelli e della proprietà. Allora, prima di chiedervi se pensate che veramente questo possa essere uno scenario credibile e sarebbe clamoroso, vi faccio risentire, carissimo Pier, che cosa disse a noi 24 febbraio Andrea Agnelli a proposito di Antonio Conte e le telefonate per tornare alla Juventus. Noi pensiamo a chi vogliamo, non a chi non vogliamo. Noi volevamo Sarri e abbiamo preso Sarri. Ma qualcuno ha telefonato a Conte o no? Perché se ne è scritto tanto in primavera. Ma che effetto le fa vederlo sulla banchina dell'Inter? Proprio perché avete passato gli anni insieme. Mi sentite ogni tanto? Sì, assolutamente, da quel punto di vista. Conte, bandiera juventina, capitano juventino, ha alzato la Champions con la Juve, ha vinto Scudetti. Conte è Juventus. Con Antonio il rapporto è cordiale, disteso, come deve essere. Sono professionisti. La sfida che lui ha reputato più affascinante è quella di riportare l'Inter a vincere. Conosco molto bene Steve, lo stimo, è una sfida che ha la presidenza dell'Inter. E a me, onestamente, avere un testa a testa con Steve nell'ultima parte del campionato è qualcosa che affascina. Allora, questo era il 24 febbraio, siamo andati a recuperarlo dal nostro archivio. Mi dite se vi scalda l'idea che dietro ci sia questa cosa, questo triangolo, posto che la Juve adesso pensa ad altro, evidentemente. Io non credo che sia così, sai però che io sono un'anima candida da questo punto di vista, sono un po' fessacchiotto, non sono complottista. Io credo qui delle due l'una, cioè o Conte, a Conte l'altro giorno è partita un po' la frizione, come era successo altre volte, penso al post partita di Dortmund, perché questo è il suo carattere, perché è incontentabile, perché ci tiene a difendere se stesso e il gruppo sempre e comunque, questa è la mia idea, oppure dietro c'è realmente un disegno che non è necessariamente legata alla Juve, ma che può essere legata alla voglia di lasciare l'Inter. Questa è la vera partita, cioè Andrea? Conte queste cose le ha dette perché è il suo istinto che l'ha portato lì. Io penso di sì. Io penso che gli si è chiusa la vena, come è capitato tante altre. A me è sembrato un po' più premeditato, però Andrea. Ma io penso che sicuramente influenzi molto il suo carattere istintivo e questa sua voglia perenne di alzare l'asticella e di essere un po' però di guardare molto il suo ombelico, però lo farei diciamo troppo istintivo e poco intelligente se non ci fosse comunque anche qualche messaggio, per cui secondo me Conte sta provando una doppia strada: o nell'Inter decide Conte, cioè decide lui, quindi lui questo sta facendo capire, e quindi anche chi resta, chi va, chi viene, non solo sul calciomercato ma anche all'interno della società, oppure lui sta facendo capire ad altri potenziali top club a caccia di un allenatore che si libera, che lui se ne può andare. Se lo richiama la Juve, secondo me ci va di corsa, se lo chiama il Manchester, secondo me ci va anche lì felicemente, e quindi ha questo doppio binario. Se invece resta all'Inter, ci resta decidendo lui, perché lui sa come si vince, gli altri no, ma lui sa che cosa serve per vincere. Concludo il discorso dicendo che alla luce, scusami, concludo soltanto il discorso dicendo che nella carriera di Conte, che è ricca di successi e nessuno ne nega, io non veramente penso che lui sia un grande allenatore, per cui non nego la sua capacità in campo, il suo essere martello e di vivere il calcio a 360 gradi e 24 ore al giorno, però Conte ha avuto come presidenti Agnelli, Abramovic, Suning, cioè per un tecnico siamo al non plus ultra, eppure lui ogni volta rompe questi rapporti interni come se stesse obiettivamente con presidenti folcloristici di basso livello. Ma che dovrebbero dire gli altri allenatori? Tommaso? No, ma scusa, vai Tommy. Questo è, come dire, per la richiesta di pieni poteri agosto e ovviamente i mojito sono consigliati, perché non portano bene a chi mette a verbale questa richiesta. Valeva nel 2019 e temo valga nel 2020. Io ho una sola, come dire, convinzione, che se l'Inter e Conte superano questa fase buia del loro rapporto, che ovviamente contraddistingue due eccellente, una in panchina e una magari dietro lo spogliatoio, l'Inter avrà fatto, si sarà lasciata alle spalle il primo quadro del videogioco che può riportarla molto in alto. Se tutto questo invece non succede, sarà una ripartenza da zero. Ma tu ci credi o no che lui abbia in testa la Juventus? Beh, ci credo. Mi fai una domanda, io, come dire, dal punto di vista del tifo e di quello che ho detto prima, sarei il magnifico cornuto, ma senza Enrico Maria Salerno a farci protagonista. Però, quindi, per un tifoso dell'Inter, in generale per i tifosi dell'Inter, sarebbe una sorta di alto tradimento. Comunque arriva Allegri in quel caso. Quel caso arriva Allegri, non caschi male. Si finisce magari di corto. Tu lo sai, quando arriva le discussioni le faccio prima, ma poi quando arriva allenatore nuovo occupo diciamo il centro togliattiano della scena, se potessimo fare un parallelo con la Roma. Ti tureresti il naso, ma te lo terresti Allegri, intendo. Ma certo. No, non tu, dico Tommaso Labate. Io terrei Conte in questo momento, ma certo, mi ricordo che l'anno scorso ero uno di quelli che diceva teniamo Spalletti, quindi faccio poco testo. Se tu terresti tutti quelli che ci sono e un minuto dopo tutti quelli che arrivano. Questa cosa non l'ho detta, penso, di Hodgson e di Lippi, ma in tutti gli altri è ovvio. Il calcio è anche romanticismo, è anche una specie di affinità magica che si crea con delle persone che tu vedi ma non conosci. Per cui sarebbe sbagliato interpretare lo sport soltanto con confermo chi vince e caccio fuori chi perde. Si creano ovviamente delle simpatie, antipatie e delle alchimie uniche tra persone che non si conoscono. Tra me e Conte, anche se Conte non ha più pari idea di chi io sia, dal punto di vista mio si è creato, io lo confermerei. Si è creato un feeling. Ma adesso al di là dell'aspetto romantico, ma non scherziamo, cioè, ma Conte è un grandissimo allenatore, l'Inter secondo me deve assolutamente fare di tutto per tenerlo. È per questo che la domanda che facevo prima è quella dirimente, cioè dietro a questo sfogo c'è il carattere di Conte, perché se è così secondo me si devono vedere e secondo me è l'ipotesi più probabile. Si incontreranno, correggeranno delle cose. Se invece c'è altro, diventa più complesso rimettere insieme i pezzi. Se c'è altro, è una scelta di Conte. Se c'è altro, allora è una scelta di Conte. Io credo che assolutamente all'Inter convenga ripartire da Conte. È un allenatore fantastico. È un allenatore bravissimo nell'accorciare i tempi. Ha fatto una buona stagione. Sono d'accordo con Andrea, la stagione non è finita. Sì, anche se mediatici, credo che per Conte sia finita l'altra sera, perché è difficile immaginare che lui avesse in testa qualcosa dopo, o magari lo scopriremo vivendo, perché l'Europa League è lì, può vincerla l'Europa League. Sta da Dio, l'Inter dell'altra sera è una squadra che sta da Dio. Ma per questo è un cortocircuito doppio quello che è successo. Allora fammi salutare Tommaso Labate, ciao Tommaso, grazie, alla prossima. Ciao ragazzi, grazie a tutti, un bacio grande. Voglio solo chiedere flash ad Andrea Di Caro, prima di ringraziarlo e salutarlo, se tiene il divorzio sotto qualunque forma inevitabile o no? No, inevitabile non è. Sicuramente io credo che l'Inter e Conte abbiano davanti i fatidici 7 giorni. Se l'Inter esce dall'Europa League, l'ascesa su chi è l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo arriva secondo me nel weekend. Se l'Inter supera il turno di Europa League, in ogni caso ci sarà un confronto con Conte. Io non credo che l'Inter si possa permettere di attendere, non voglia attendere eventualmente anche il percorso che auguriamo all'Inter di fare fino al termine, fino alla finale del 21 agosto la finale. No, ma si decide chiaramente tutto molto prima, c'è un mercato da portare avanti, ci sono dei giocatori da acquistare, degli altri bisogna decidere il da farsi, ci sono dei rientri anche in casa Inter, perché non dimentichiamo quei giocatori andati via in prestito, prima non l'abbiamo ricordati, ma il fatto che l'Inter abbia comunque assecondato Conte, l'ha assecondato anche giustamente, quello si sapeva, togliendo Icardi, che poi è riuscito fortunatamente a monetizzare, ma anche mandando via Nainggolan, mandando via Perisic, insomma, l'Inter ha seguito le indicazioni di Conte. Se poi Eriksen non lo voleva e voleva un altro tipo di giocatore, siamo d'accordo, però come diceva giustamente prima Pierre, non tutte le ciambelle riescono col buco, ma quelle di Conte di quest'anno sono tante le ciambelle che sono uscite. Certo. Direi sì. Quindi si decide secondo me entro una settimana, non di più. Grazie Andrea. Ciao Andrea, aspetta Pier, perché siamo abbondantemente lunghi per la borsa. Allora, ringrazio Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta. 800 24 00 24, non lo vedete per intervenire da qui fino alle 15:30. 349 238 6666, sms e whatsapp. Adesso ci fermiamo la borsa, poi c'è Davide Nicola, poi torniamo su Conte perché la seduta non è stata tolta e facciamo parlare voi, sentiamo che cosa ne pensate. Io ti voglio bene perché sono juventino e quindi ti porto sempre nel cuore. però non vuoi spostare la faccenda che ti hanno dominato sul campo con la fregnaccia del tuo dopo partita. Anto! Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Al cross, colpo di testa di Shakov, poi il tuffo alla Padula e Lecce accorcia le distanze con il gol di Gianluca La Padula. È 3-4. Forse noi per la prima volta siamo riusciti a fare qualcosa che non abbiamo fatto in altre occasioni, e mi riferisco al fatto di non guardare ciò che accadeva a Lecce, e mi riferisco al fatto di concentrarsi solo sulla nostra partita. Il gol di Romero di testa, è riuscito a battere Radulovic. 3-0. Noi abbiamo fatto un percorso straordinario, perché abbiamo totalizzato i punti per essere non in classifica dal mio arrivo. Io credo che questo sarebbe stato un peccato, e forse avremmo meritato di salvarci un po' prima. Sono solo estremamente gratificato per la soddisfazione che avranno stasera i nostri tifosi. Questo mi rende molto felice. Allora, bello sapere che domani non ci sarà allenamento. Domani c'è, oggi non ci sarà l'allenamento del Genoa, e ci mancherebbe, dopo un mese e mezzo condotto a questi ritmi, ma c'è con noi carissimo Pier Davide Nicola. Ciao Davide, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato, per la convocazione. Certo, e insomma, convocazione il primo giorno di vacanze dopo un periodo come è stato quello che abbiamo vissuto, è una convocazione che ci fa particolarmente piacere che tu abbia accettato. Allora, intanto l'emozione del giorno dopo. L'emozione è la continuazione del giorno prima, nel senso che appena terminata la partita c'è stato un grande senso di gratificazione, di fiducia, di gioia, come è giusto che sia, ma non tanto solo per l'allenatore, quanto l'allenatore nei confronti di tutto l'ambiente, quindi tifosi, società, direttore sportivo, presidente, giocatori, perché quando riesci a fare qualcosa di importante è chiaro che sei contento e felice anche per gli altri. Ieri sera è sembrato tutto facile, cioè dopo 20 minuti il Genoa era avanti 2-0, il Lecce era sotto 2-0, ma in questi giorni, in queste ultime due settimane, c'è stato un momento in cui hai avuto paura? Ma in realtà tutto facile mi sembra un po' esagerato, se si rivede la partita. No, ma a guardarlo da fuori, nel senso, certo, infatti, ti aspetti una serata cardiopalma fino all'ultimo secondo e poi guardi dopo 20 minuti si era più o meno inteso da questo punto di vista. Sicuramente siamo trovati nella condizione di avere avuto un altro tipo di partenza anche a livello emotivo rispetto a Sassuolo, dove noi eravamo forse più attenti inconsciamente a ciò che succedeva in un altro campo e non stavamo pensando a quello che dovevamo fare noi. Ecco perché poi secondo me è uscita anche fuori una prestazione che dal punto di vista emotivo è stata un po' sballata, anzi senza un po', completamente sballata, come di fatto poi abbiamo messo tutti. Contro il Verona invece l'approccio è stato diverso, perché sono state anche scelte diverse, non i telefonini, non il tabellone, volevamo solo pensare a noi, sapevamo che con una vittoria potevamo salvarci, una squadra che comunque aveva totalizzato diverse vittorie nelle ultime sei partite poteva fare quell'impresa lì, e così abbiamo fatto. Pier? Beh, se guardiamo i numeri post lockdown e i numeri di tutta la tua gestione, in realtà la salvezza poteva essere ancora un po' più tranquilla, no? L'hai anche sottolineato tu ieri in conferenza stampa. Vorrei, ci spieghi il Genoa da fuori? Cioè spieghi a un marziano che viene oggi in Italia, che vede quella tifoseria, quel bacino d'utenza, come dicono quelli bravi, in fondo anche gli investimenti, anche gli ingaggi. Perché il Genoa spesso si complica così tanto la vita? Adesso sono due anni che arriva a giocarsela all'ultima giornata. Proviamo a fare proprio un'analisi, proprio analitica, come se fossimo dei consulenti arrivati da fuori, per capire anche dove si può migliorare. Ma sicuramente la tua è stata un'analisi veloce, bella la vita, quando uno è già al mare in vacanza da parecchio tempo, è molto più lucido, vedi come l'ha subito spiegata. L'analisi Pier viaggia tra una barca e un aliscafo, dico solo questo. Viaggio fra il mare e una telecronaca, questo sì, insomma, l'altro ieri ero a Bergamo, però ieri la partita l'ho vista. In realtà ho visto stanotte, ma insomma l'analisi è corretta, nel senso, spiegati, io non posso sicuramente spiegare, posso solo avallare il fatto che negli ultimi quattro anni ormai le cose magari non sono sicuramente sono più difficoltose, però non posso sicuramente spiegare qualcosa che è prima del mio arrivo. In questi sette mesi mi sono reso conto che ci sono delle dinamiche per cui per migliorare bisogna comunque avere un'identità precisa, una continuità di interpreti e di gestione. Ci sono diverse situazioni, ma io credo che la squadra, per quello che è stata la mia gestione, poi alla fine sono 21 partite, è vero che sono passati 7 mesi, ma sono 21 partite, due partite più di un girone. La squadra ha dimostrato valori diversi, anche come posizione di classifica, e il paradosso sarebbe stato proprio lì. Tu hai detto avremmo potuto salvarci prima, l'ho detto riferendomi alla mia frase di ieri, è vero, ma è anche vero che tutto questo, diciamo, discorso salvezza è stato rimescolato in un campionato che è stato davvero atipico e molto particolare. Alla fine i valori sono comunque stati più o meno quelli dalla prima in classifica ad arrivare all'ultima, solo che abbiamo dovuto fare un pochino più di difficoltà, ma la squadra ha dimostrato di avere dei valori da posizione dal nono all'undicesimo posto in classifica, quindi i valori sono quelli. Che lavoro hai dovuto fare? Scusa, visto che abbiamo citato le 21 partite della gestione, 28 punti, undicesimo posto, cioè una situazione di tranquillità assoluta e di metà classifica, giusto nella prima posizione in alto a destra, quindi insomma, però tante volte vediamo che il Genoa si complica la vita, cioè arriva a delle situazioni, è come se ci avesse bisogno quasi della sofferenza per... Adesso te la sto facendo un po' letteraria, quasi della sofferenza. Ripeto, potrebbe essere vero quello che dici, ma anche no, nel senso che se parliamo degli ultimi anni, e questo è un dato di fatto, quindi è innegabile, però è anche vero che secondo me questo specifico periodo non sarà paragonabile, diventa anche difficile confrontarlo con altri periodi, perché noi abbiamo interrotto, diciamo, prima del lockdown eravamo in crescita di entità, di risultati e tutto, sì, ma alla fine poi non è che non abbiamo fatto punti, non abbiamo avuto la stessa media punti. La problematica di gestione è stato giocare per tutte le squadre, questo l'ho detto sempre, ma infatti è successo a tutte le squadre, a parte due o tre squadre dove hanno mantenuto un ritmo molto più molto superiore a quello che avevano dimostrato prima, le altre hanno avuto alti e bassi, per tutti è valso così, perché è davvero molto difficile, è stato molto difficile poter gestire questa situazione dove poi alla fine tu non avevi neanche il supporto di nessun pubblico. Mi parlavi di quanto conta Genoa o la realtà Genoa, noi abbiamo una tifoseria che è un valore aggiunto, riconosciuto in tutta Italia, da noi in primis, ma senza pubblico diventa anche difficile, ovviamente è come se uno in qualche modo andasse a provare, un attore di teatro andasse a provare e parla alla platea vuota, sa poi che ci starà il pubblico a vederlo, ma se tu vedi una platea vuota è diverso la resa, secondo me. Allora, io leggo a Davide Nicola quello che ha detto questa mattina il suo presidente: Preziosi, dopo 35 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro, il Genoa è in vendita da 3 anni, ha ricordato, vorrei staccarmi della responsabilità, poi vedremo che cosa succederà, perché chiaramente Preziosi, che è anche stato tanto criticato dai tifosi del Genoa, ha poi in realtà il grande merito di tenere questa piazza in Serie A con continuità e di aver anche regalato dei momenti di alto livello, e quindi noi saremo qui a raccontare, e non chiedo a Davide Nicola che cosa ne pensa, chiedo però, al di là delle meritate vacanze, quali sono i progetti per i prossimi mesi? Vabbè, ma intanto questo è il day after a un'impresa che a noi davvero è costata molto impegno e grande soddisfazione. Ad oggi io francamente vi sto parlando in una posizione dove per la prima volta mi sono alzato e sapevo di non andare a fare allenamento, quindi la serenità, diciamo, di non dover incorrere un risultato o un obiettivo mi è arrivata automatica. In questo momento sto passeggiando per le vie di Genova e quindi non so ancora cosa succederà, è molto chiara la situazione, la mia posizione contrattuale, quindi quando ci sarà motivo e modo di parlare con i diretti interessati si farà una riunione per capire che cosa si vuole andare, dove si vuole andare e cosa si vuole fare, vedremo. Credo sarebbe bello, però, giusto, però poter fare, no, Pier, ecco, un bel progetto senza averlo preso in corsa, insomma. Pier. Sì, questo volevo chiedere, se, al di là del fatto che ho una curiosità voyeuristica, quindi senza dare proprio un indirizzo preciso, volevo geolocalizzarti e capire dove sei a Genova, ma perché mi sa che mi piace molto, ma appegli. C'è disponibilità per poter costruire, magari con un filo di pazienza in più, perché questo secondo me è il vero tema, no? È che ogni volta tutto viene messo in discussione ogni 2-3 mesi, è chiaro che i risultati sono importanti e non si può prescindere dai risultati. Per la parte tua c'è una disponibilità, uso una parola grossa, una frase grossa, ad aprire un ciclo, a provare ad aprire un ciclo? Ma secondo me sono questioni un po' fine a se stesse, nel senso che un ciclo parte, inizia e finisce quando comunque c'è una comunicazione chiara, quando c'è una meta delineata, quando ci sono analisi particolareggiate, quando c'è fiducia in tutti i componenti, quindi nel corso del tempo si apre un ciclo, quindi si fanno più anni. In realtà qua non c'è da pensare a lungo termine, è importante pensare magari in una programmazione sicuramente annuale, ma sono tutte valutazioni che si faranno. Nel mio caso specifico si è avuto fiducia, è vero, sono arrivati i risultati, è indubbio che i risultati portino comunque a confermare automaticamente la fiducia, ma c'è anche stata la possibilità di conoscersi da una parte e dall'altra, quindi saranno valutazioni serene di ciò che sarà e di ciò che si vorrà fare e che potranno avvenire solo tra un po' di tempo. Intanto buona passeggiata e buone vacanze, Davide. Grazie a voi, mi raccomando, terra di vini buoni e cibo buono, stiamo calmi, Sì, stiamo molto calmi, ma stai parlando con Pier, perché noi siamo molto anche in Viale Monterosa a Milano, davanti al vetro, con dietro Paolo Corleone, la Schiattone, sì. No, tu sei in una situazione di professionalità assoluta. Io. Mi farò un bagno e te lo dedicherò, perché insomma immagino che hai fatto veramente un mese e mezzo di lavoro duro, intenso, e poi chiaramente insomma questo vale soprattutto per certe piazze che sono piazze importanti dove i tifosi li senti, li vivi ogni giorno, hai sottolineato, è vero, è oggettivo, chi ha visto un derby di Genova dal campo ha capito benissimo, no? Genova è una città da questo punto di vista straordinaria, perché è la più piccola fra le città italiane con 2 squadre. Ed è una città che vive di calcio, una città con pochissimi tifosi che non sono né del Genoa né della Samp, quindi è una città con un'identità calcistica fortissima. C'è una cosa che mi colpisce sempre, tutti questi ragazzi con i caschi o col grifone o col simbolo, col baciccia, col simbolo della Samp, cioè è una città veramente che vive di pallone 365 giorni all'anno, e quindi è chiaro che ti chiede molto, ti dà tanto in termini di passione, ma ti chiede anche molto, e l'aspettativa era tanta ed è arrivato il risultato, dai. Assolutamente condivido quello che dici, ma per uno che fa il nostro lavoro è assolutamente gratificante, almeno in questi contesti per me è davvero piacevole. Ricordo anche che ci sarà l'inaugurazione del ponte, finalmente. Al di là delle 2 tifoserie e delle 2 squadre ci sarà un'unione, che ritornerà un'unione importante per questa città davvero fantastica. Hai fatto bene a ricordarlo, lo abbiamo ricordato prima con tutti i colleghi, oggi Radio 24 dedica una parte importante della sua programmazione a un giorno speciale per Genova, ed è anche bello, poi parleremo anche nei prossimi giorni con il Lecce, con l'altra faccia della serata di ieri, con grande dignità, torna in Serie B, ma è bello anche che Genova possa festeggiare una giornata come oggi, mettendoci insieme anche quel tassello della salvezza del Genova. Aspetta che, allora, devo salutare salutare Davide Nicola. Ciao Davide, grazie. Allora, grazie a voi, grazie. Buona passeggiata. Ciao Davide. Non dimentichiamoci in 15 secondi che quando ci fu la terribile alluvione, no? Quando c'era questo bisogno, che insomma, quando c'erano questi problemi a Genova, abbiamo visto insieme i ragazzi delle due gradinate del Genoa e della Samp lavorare insieme in maniera assolutamente volontaria. Questo è oggettivo, quindi poi la rivalità è forte, è grandissima, è anche bella, ma insomma poi sulle cose importanti della vita questi ragazzi hanno sempre dimostrato di essere particolarmente sensibili, e sono ovviamente giornate importanti con questa inaugurazione del ponte che ci fa ricordare un terribile dolore ma anche un desiderio di ripartenza e di normalità anche qui, quindi insomma questo è oggettivo, è indiscutibile. Ricordo oggi copertura assoluta nel tardo pomeriggio di Radio 24 per l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Traffico, torniamo con voi, 800 24 00 24. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Promo 24. Chi ha un libretto smart adesso può rendere i propri risparmi dei super risparmi, attivando online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. Chi non ha un libretto smart può aprirlo, attivare l'offerta solo online da app BancoPosta e Poste.it, e a scadenza riceverà un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. I buoni e i libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Tutti convocati. Allora, seduta riaperta, 800 24 00 24, Franco da Treviso. Franco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, cercherò di essere veloce. Allora, una premessa: io già prima del lockdown non ero soddisfatto del gioco di Conte. Io ho visto sempre una squadra lunga, prevedibile, macchinosa. Tanto è vero che poi, se stiamo ai risultati, secondo me sono assolutamente al di sotto, perché uscita dalla Champions, uscita dalla Coppa Italia, un campionato da secondi che era quello che doveva fare. 13 punti più dell'anno scorso, va bene, ma è un altro campionato, i paragoni sono sempre difficili. Se vincerà l'Europa League allora sarà un altro discorso, però detto questo, l'uscita dell'altro giorno per me è inammissibile, non esiste. Io non ho mai sentito voi della stampa, non ho mai sentito all'interno delle dichiarazioni, le interviste della società, dei vari dirigenti, non ho mai sentito una parola contro Conte. Di cosa stiamo parlando? Qualsiasi altro allenatore, insomma, qualche critica Franco se l'è presa Conte anche nelle ultime settimane, ma fa parte del gioco, sempre molto leggera. Concludo dicendo questo: qualsiasi altro allenatore in qualsiasi altra società, per un quarto di quello che ha detto Conte, un quarto sarebbe sicuramente mandato via. Non esiste una cosa del genere. Sì, però non è semplice mandare via un allenatore, e lo dimostra, perdonami Franco, la carriera di Antonio Conte e come ad esempio è uscito dal Chelsea. Vi ricordo che alla fine il Chelsea ha dovuto pagare tutto, pur avendo fatto il licenziamento per giusta causa. Sì, ma soprattutto, ha perso la causa e quindi insomma questo testimonia che non è così soprattutto semplice. Soprattutto mandi via Conte per prenderne uno migliore, e sono pochissimi quelli migliori di Conte. O comunque quello si è capito, c'è un profilo libero. Io penso che la stagione ad oggi sia buona, non è una stagione trascendentale, proprio perché sono mancate, secondo me, sono mancati due o tre passaggi chiave, anche un pizzico di fortuna. Io mi ricordo quando discutevamo di Napoli-Inter di Coppa Italia, che la partita dell'Inter poteva portare a casa, dal punto di vista della prestazione aveva forse meritato almeno del ritorno, e però è passato il Napoli, e in Champions League il girone di ferro, ma sicuramente la partita col Barcellona con tanti cambi l'Inter non la giocò benissimo, quindi è mancata in tanti momenti la partita della svolta. Per me però è una buona stagione, la crescita è oggettiva, rispetto a un anno fa la crescita è oggettiva, e tante volte mi sono trovato a difendere questa posizione, questa tesi, anche nei confronti di alcuni ascoltatori di così dell'Inter che invece parlavano di una stagione come quella dell'anno scorso. No, assolutamente no. I numeri sono lì che lo testimoniano. Andrea da Bergamo, Andrea. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Volevo salutare innanzitutto il grandissimo Pierluigi. E visto che ha detto di essere stato a Bergamo, io sono un tifosissimo dell'Atalanta e spesso e volentieri sono allo stadio. Volevo un po' capire il mistero di Ilicic, perché siamo preoccupatissimi, soprattutto in vista della Coppa, e volevo capire se avevate delle news o un qualcosa in più, perché veramente non si capisce cosa sia successo a questo ragazzo. Detto questo, vi saluto, mando un grande abbraccio a tutti voi e anche, come avete detto prima, alla città di Genova, e un grande saluto, buon viaggio a tutti quelli che vi stanno ascoltando come me. Grazie. Vai Pier. Ma allora, notizie non ne ho, e onestamente anche se sapessi qualcosa non lo direi, perché credo che qui ci sia un discorso di privacy e di riservo, quindi ci atteniamo alle cose, ma in realtà non so niente di più di quello che abbiamo sentito da Gasperini e dagli altri. Io una sola sottolineatura voglio dare: qui sicuramente si tratta di un problema di natura psicologica, questo l'abbiamo capito, e vorrei che facessimo tutti questa riflessione sulla umanità dei calciatori, che molto spesso vengono considerati delle macchine perfette, invincibili. Ilicic è uno che sta facendo l'anno migliore della sua carriera dal punto di vista personale. Per me il rendimento è quasi da pallone d'oro, comunque del gruppo dei 10-15 che possono ha fatto dei numeri da pallone d'oro adesso, incredibili. Quindi nell'anno migliore della sua carriera, in un anno così straordinario dal punto di vista calcistico per l'Atalanta, probabilmente qualcosa nella sua testa, nella sua motivazione è venuto meno. Questo è quello che ho capito, poi di più non so, e ti ripeto, se sapessi qualcosa comunque non lo direi, perché facciamo anche volentieri un passo indietro. Certo, ma assolutamente. Però è sicuramente, l'abbiamo capito da Gasperini, da Marino, un problema legato alla condizione fisica. Sì, non è un problema fisico, non si è stirato, non si è strappato, e è altro. Ci uniamo all'abbraccio, e questo però secondo me portiamocelo dietro, perché i calciatori sono ricchi, sono famosi, hanno delle donne bellissime. Sono uomini come tutti. Però sono uomini. Con i loro equilibri delicati. La testa conta sempre. Alfio Sondrio. Alfio. Sì, buongiorno. Complimenti. Vai. A tutti. Grazie. Ecco, stia a sentire, io ho visto la partita Atalanta-Inter e mi sono detto, ma l'Inter ha messo sotto l'Atalanta, cosa che non ha fatto la Juve nemmeno. E poi mi sono sentito Conte e ho detto, beh, è il solito gobbo, cioè io l'avrei mandato via. Poi pensando chiaramente a freddo, sì, dico, il solito vabbè, gobbo teniamoci. È un pensiero molto interista, Alfio. Sì, ma dico, teniamocelo finché, perché l'Inter è più grande di Conte, è più grande di Zhang, è più grande di tutti, cioè è più grande anche di Moratti, malgrado Moratti sia il non plus ultra che abbia avuto l'Inter. Quindi io direi, teniamocelo questo gobbo fino a quando ci serve, poi lo lasciamo. Hai capito, Pier, no? Pragmatismo nerazzurro. Teniamolo, della realtà e del campanile. In effetti è abbastanza incomprensibile uno sfogo così dopo una partita così bella, con una squadra in crescita ancora in corso in Europa League. E torniamo alla domanda di partenza. Perché? È uno sfogo genuino, caratteriale, dovuto al fatto di stimolare l'ambiente a crescere ancora, perché Conte è incontentabile, appunto, ed è una sua grande qualità. Io penso di sì. Io sono sempre. Tu pensa, Pier, se facevamo balenare ad Alfio l'idea che potesse esserci dietro la voglia di tornare alla Juventus? No, sì, sarebbe... insomma, a me sembra un po' cervello, anche perché ti posso dire, nel mondo di oggi, se uno ha voglia di andarsene, non ha bisogno di. Ecco, non è che ha bisogno di andare da Zone e Sky a fare queste dichiarazioni, rassegna le dimissioni, si mette d'accordo con quegli altri e va via. Quindi secondo me è uno stimolo dovuto al carattere di Antonio Conte, che ogni tanto gli parte Gli si chiude la vena. La sorpresa è stato che di solito gli capita dopo le sconfitte, questa volta gli è capitato dopo una vittoria e comunque il raggiungimento di un risultato come secondo posto. Pier, ti devo salutare, domani appuntamento alle 14. Claro, saluti. Ciao, ciao, ciao Pier. Due minuti di pausa, torniamo, parliamo di Formula 1. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. In modo incredibile Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Gran Bretagna. Mamma mia, Hamilton e la Mercedes il mondiale lo vincono pure su tre ruote. Sicuramente c'è fortuna per terzo posto e per il podio, però alla fine, anche se avessimo fatto quarti, sarei comunque contento perché abbiamo maximizzato quello che avevamo. Sicuramente, ancora una volta, continuo a ripetermi, non è dove vogliamo lottare più in avanti, però in una situazione del genere dobbiamo fare il meglio con quello che abbiamo, e sia strategia che anche io ero molto contento di come ho gestito la gomma in generale, e quello è molto positivo per quando potremo lottare davvero per le vittorie. È chiaro che la macchina con queste difficoltà, anche i nostri piloti si possono non trovare al proprio agio. È stato il caso di Sebastian, ha perso una sessione, non ha mai trovato il ritmo. Importante con lui adesso, insomma, abbiamo qualche giorno prima di nuovo tornare su questa stessa pista, guardare bene i dati, capire e magari provare qualcosa di diverso che lo possa mettere in condizione di lottare anche lui. Allora, questo è stato il riassunto di quello che è successo ieri a Silverstone, in un Gran Premio francamente noioso, per i primi 50 giri su 52, Gran Premio che si è incendiato soltanto negli ultimi chilometri per un problema di gomme. Gomma anteriore sinistra esplosa quella di Bottas, che di fatto è uscito dalla zona punti, esplosa quella di Sainz, che ha dovuto rinunciare a un ottimo quinto posto, ed esplosa poi quella di Hamilton, che è stato bravo nell'ultimo giro a riuscire comunque a tenersi il primo posto che si era costruito con tanto di vantaggio nel corso dei primi 50 giri. E quindi abbiamo avuto l'immagine di questa Mercedes arrivata prima al traguardo di fatto su tre gomme, che è un po' anche la fotografia di quella che è nel 2020 la Formula 1, che ha un evidente problema di equilibri e di competitività. 800 24 0024, adesso ne parliamo. Antonio da Modena. Antonio? Sì, eccomi. Eccoci, vai. Volevo solo chiedere, si è parlato diverse volte... Sì, però Antonio, ti fermo subito, c'è qualche problema. Allora, devi spegnere la radio e poi puoi intervenire. Prego, Antonio. Eccomi, mi sentite adesso? Molto meglio, vai. Vai Antonio, su. Niente, c'è qualche problema con Antonio da Modena. Allora, quando intervenite vi chiedo di abbassare la radio, di spegnerla, perché altrimenti c'è evidentemente qualche problema. Dicevo, l'arrivo di Hamilton su tre gomme è stata la fotografia di quello che è oggi la Formula 1. È in questo 2020, lo è stato in parte l'anno scorso, il rischio c'è che lo sia anche nel 2021, e cioè uno sport in cui non c'è in questo momento alcun equilibrio. C'è una macchina che è dominante, con un pilota, Hamilton, che di questo passo viaggerà verso il settimo titolo mondiale consecutivo, e tutti gli altri costretti ad inseguire e incapaci di vincere anche ad handicap, che è una delle ipotesi che qualcuno oggi anche sui giornali ha paventato come possibile soluzione per cercare di ridare vita al mondiale di Formula 1 in tempi ragionevoli. Abbiamo recuperato Antonio da Modena. Antonio? Sì, salve, non so cosa si è sentito fino adesso. No, ma non io si è chiedevo... sentito nulla, vai. Se si poteva parlare molto... Allora, continua a non sentirsi nulla. Credo volesse parlare del motore, ma non ho capito di chi, e quindi se riusciamo a riagganciarlo bene, altrimenti passiamo oltre. Dicevo, problema della Formula 1 che evidentemente non ha competitività. Oggi qualcuno scrive sui giornali, si può anche immaginare di provare a fare delle gare ad handicap per provare fino ai nuovi progetti, quindi fino al 2022 a limitare lo strapotere della Mercedes può essere una soluzione, però è chiaro che quello che abbiamo visto ieri pomeriggio si sta ripetendo troppo spesso nel mondo della Formula 1. In attesa di tornare a parlare dei motori, 800 24 00 24, Giulio da Milano. Salve, sono Giulio. Senta, vorrei parlare di Conte. Io sono un tifoso interista, però cerco sempre di essere obiettivo. E, mi sono segnato il calendario dopo Covid sì. dell'Inter. E, ha fatto 3 partite in casa, col Bologna perso, col Sassuolo pareggiato e con la Fiorentina pareggiata. Abbiamo perso 7 punti. Quindi mi sarei aspettato da Conte, in quelle circostanze, insomma, che dicesse, insomma, colpa nostra, cioè non del calendario, perché tutti hanno giocato più o meno agli stessi orari, chi più chi meno, e, di non sempre, da quell'impressione di sempre arrampicarsi a qualcosa, quando poi comunque i risultati con queste squadre non sono venute. Questa è la mia considerazione. Poi l'ultima, Conte, arriva Allegri. Quindi Conte, perdonami perché, Giulio, quindi Conte deve avere rimpianti per quello che non è stato. Penso che anche la Juve abbia perso comunque dei punti, comunque è stato, sono state delle partite un po' giocare a luglio, insomma, col caldo che c'è, così. Però Conte si deve rimproverare, non può rimproverare la società, qualcosa che non è riuscito a fare lui né lui nella squadra. Quindi non mi sembra che dopo il Bologna o col Sassuolo la società, chissà quale critiche abbia, ci stanno anche le critiche, cavoli, pareggi con la Fiorentina, il Sassuolo, perdi in casa col Bologna, ci può anche stare che tu subisca delle critiche, insomma. Sì, penso che sia anche giusto. Che credo siano state poi fondamentalmente abbastanza morbide, lo dicevamo anche prima, Conte è stato chiaramente criticato all'interno di questa stagione in cui ci sono stati momenti migliori per l'Inter, soprattutto all'inizio, e momenti di difficoltà, soprattutto dopo Natale, perché l'Inter aveva già attraversato un momento di difficoltà nel mese di gennaio con una serie di pareggi. È chiaro che tutto quello che è accaduto nelle ultime 48 ore e in generale nelle 2 settimane precedenti ti dà l'idea che in realtà ci fosse qualcosa che covava da tempo sotto la cenere. Chiedo che cosa ne pensa anche a Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva. Ciao Michele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Ma sai, io ne penso un po' come appunto l'editoriale oggi è per me emblematico di De Caro, del vice direttore della Gazzetta dello Sport, che appunto ha riassunto bene quelli che sono dei concetti fondamentali sulla lideranza. Voglio dire, ormai comunque aggiungo io, abbiamo capito, Conte è un grande allenatore, ci mancherebbe altro, però nei momenti di difficoltà ha una sua tecnica, e questa tecnica è quella un po' della distrazione da certi problemi, e comincia a pensare all'anno dopo, sia se rimane sia se non rimane. È una strategia sua di comunicazione che non desta molte simpatie all'interno, ma ci può stare. Chiaramente non condivido molto, perché io credo che lui alle spalle abbia avuto comunque una grande società. Di quelle straniere che compaiono in Italia, mi sembra che è quella che di più si è messa a disposizione dell'allenatore e dei tifosi, per cui insomma chiaramente non sono molto d'accordo con le sue dichiarazioni. Questo tempo di bilancio in tanti club, anche nella Lazio ad esempio, c'è Lotito che viene segnalato abbastanza arrabbiato per come è andata a finire. Ha ragione secondo te? Beh, gli ultimi fatti ci dicono che è più arrabbiato per la Salernitana, no? che per la Lazio. Ma che però forse arrabbiato. Immaginava un finale diverso anche per la Lazio, non il quarto posto. Nel finale dovrebbe fare delle considerazioni psicologiche, cioè Lotito è un grande manager, l'abbiamo capito, l'ha dimostrato, non so da un punto di vista psicologico il suo valore, però esiste la psicologia di gruppo. La psicologia di gruppo è come pensare che la squadra sia una persona. Allora non ci dimentichiamo il lockdown, qual era l'entusiasmo prima, qual era la compattezza in quel momento. Poi c'è stato lo stop, la prima difficoltà, se ricorderete bene, con l'Atalanta, qualche autostima è venuta meno, e poi c'è stato un po' di schianto. Però voglio dire, era anche perché la Lazio è andata al di là delle più rosee previsioni, e ha ragione Inzaghi quando dice che il lockdown l'ha abbastanza penalizzato, ma non tanto da un punto di vista fisico eccetera, perché poi lì vale per tutti la stessa cosa, quanto perché quando le cose vanno bene, gira tutto bene e sei avvantaggiato partita per partita, le vittorie aiutano le vittorie. Quando ti fermi è un po' come i giocatori di carte che dicono che il momento è caldo, no? Quando è caldo rischiano di più, vincono di più, e poi si è fermato qualche cosa e questo ha compromesso tutto. Ma io credo che la squadra abbia fatto non bene, molto bene. Tu pensi che resterà Inzaghi? Ma ogni anno, no, ultimamente si diceva questo, bisogna vedere un po' le sirene, perché poi siamo tutti deboli e quindi se ci sono sirene molto molto forti capisco tutto. In linea di massima penso di sì, perché mi sembra comunque da la catena presidente, direttore sportivo e allenatore, quindi poi squadra, tutto sommato abbia sempre funzionato, quindi sì, io credo che parecchio siamo anche quest'anno, non dobbiamo farci ingannare da come è finita poi la stagione. Appunto sì, io nel dire che non lo so, però opto più sul fatto che possa rimanere che non debba andare via, ecco, tranne, ripeto, sirene straordinarie. Domanda che rivolgiamo anche a proposito di un altro grande protagonista della stagione della Lazio. Ma nella testa dei grandi campioni c'è il pallone d'oro, nella testa degli attaccanti c'è la scarpa d'oro. È il massimo che puoi raggiungere, no? A livello professionale, personale, quindi sì, è vero, era un mio obiettivo e ci ho creduto da sempre, ci ho creduto perché credere nei propri sogni è un valore aggiunto e ci ho creduto fino in fondo, quindi posso dire con certezza e con fierezza che oggi ho realizzato uno dei miei sogni. Allora, l'altro grande protagonista è ovviamente Ciro Immobile, carissimo Michele Plastino. Saluto anche Bruno Giordano, ciao Bruno. Buon pomeriggio a tutti, ciao Michele, un abbraccio a tutti. Allora, io voglio capire da voi due quanto valgono i due record che ha fatto Immobile in questa stagione, perché ha anche fatto, così come Higuaín nel 2016, i 36 gol, seppure ricordano tanti tifosi, tirando tanti rigori, per carità, ma i rigori bisogna poi segnarli. Bruno. Beh, vale tanto, fa parte di, come ho sentito appunto la dichiarazione di Immobile, di un sogno di un attaccante, poter arrivare sopra gente come Ronaldo, come Lewandowski, come Messi, insomma è un motivo di grandissimo orgoglio. Ha fatto un'annata straordinaria, vedo che ha battuto 15 calci di rigore, però i rigori vanno anche trasformati. Per cui niente, a livello sia personale che di squadra, questa sarà una stagione da incorniciare per lui, per la Lazio. Sentivo prima il discorso che faceva Michele, è chiaro che noi siamo di un'altra generazione, ragioniamo con il cuore, sembra che sia tutto tranquillo, però io credo che oggigiorno, dal momento che ci sono i procuratori che decidono molto in base ai trasferimenti, il fatto che Immobile abbia fatto un'annata così sia sotto i riflettori di tutti e potrebbe con un ingaggio importante anche lasciare, insomma, io mi auguro di no. Quindi tu hai paura che possa andare, anche se in realtà le sue esperienze all'estero non sono state buone in passato? Ma se i soldi sono tanti, le esperienze poi possono anche cambiare, insomma, oggigiorno è vero che tanti giocano anche per i record, come ha sottolineato Immobile, però i soldi sono prima di tutto, oggigiorno. Appunto, noi ragioniamo un po' con la mentalità di 30 anni fa, dove esistevano le bandiere e tante altre cose. Oggi i procuratori, se c'è una squadra che ti raddoppia l'ingaggio, credo che sia difficile poi tenere un procuratore così tranquillo. Michele? Sì, no, appunto, tra l'altro prima parlavamo di Inzaghi, su Immobile non l'avevo ancora detto, io sono perfettamente in linea con quello che dice Bruno, sono cambiati i tempi sono cambiati, al di là dei procuratori gli stessi giocatori nascono con una cultura diversa, anzi devo dire che ultimamente mi ha fatto piacere perché finalmente le ultime dichiarazioni, Immobile mi è piaciuto molto quando ha riconosciuto i meriti della squadra per il suo record, i meriti dell'allenatore, è ovvio che adesso si ragiona in maniera diversa, io personalmente, proprio in prima persona, sono stato testimone di un ripensamento all'ultimissimo istante del signor Bruno Giordano, quando doveva andare in quel momento la Lazio non era una grandissima squadra, invece lui doveva andare, anzi aveva già fatto tutto con una grandissima squadra, all'ultimo con una telefonata, ancora lo ricordo, mi ha detto no, non ce la faccio a lasciare la Lazio, e questi erano però veramente altri tempi. Non solo, ma pensate a Bruno Giordano, io ritengo, non perché sia qui, lui lo sa, veramente uno dei centravanti più completi degli ultimi 50 anni, proprio come qualità di gioco, come tutto, e all'epoca lui affrontava tutte squadre che giocavano strettamente a uomo con il raddoppio del libero, a zona ci giocava solo il Milan per una breve parentesi quando lui poi era era nel Napoli. In questo momento per me Bruno è uno di quelli che faceva 72 gol in un campionato. 72, Bruno. No, cioè, il doppio di quelli che ha fatto Immobile. Cioè, no, guarda, scherzando. È chiaro che io 15-18 gol li battevo in 5 stagioni, non in una stagione. Per cui i rigori ti aiutano non soltanto a livello numerico, ma non andare in crisi. Perché se ogni due o tre partite ci sta un calcio di rigore, fai fatica ad andare in crisi. No? Perché poi è vero che voi attaccanti vivete attaccati a quel conteggio che sale o non sale, ed è un problema. Sì, ma anche le regole. Io dico, oltre alla qualità dei calciatori, i difensori, mi viene in mente Viercut, Gentile, Bruscolotti e tanti altri, che ne dimentico, Ferri, Collovati, insomma. È proprio le regole. Se tu pensi che noi in quel periodo in linea eravamo in fuorigioco, dovevi partire mezzo metro dietro al difensore per non stare in fuorigioco. Oggi invece ci sono tanti attaccanti che hanno fatto la propria carriera giocando sulla linea del difensore, i calci di rigore e tante altre cose. Però insomma ogni periodo c'ha i suoi giocatori. È inutile fare classifiche così. Per cui niente, si va avanti e niente, certo, perdonami Bruno, rigori su rigori, no, vai. Non ti piace, non ti piace, vedere una partita a rigori su rigori, abbiamo capito che non ti piace. No, perché credo sia bella anche una partita 0-0 o 1-0, perché poi quando ci sono tanti gol vuol dire che ci sono anche tanti errori da parte difensiva, perché di prodezze vere e proprie ne vedo poche nel campionato italiano, vedo tanti calci di rigore, tanti autogol che vengono assegnati. Errori dei portieri, di prodezze in questi tantissimi gol di questa stagione me ne ricordo veramente poche. Ne hai viste poche. Restiamo un attimo su Ciro Immobile. Volevo chiedere a tutti e due se avete capito che attaccante è Ciro Immobile. Cioè, mi porto avanti di un anno di questi tempi, qualcosa meno, quando avremo l'Europeo. Andiamo all'Europeo con un grande attaccante di levatura internazionale, Scarpadolo 2020, o con un giocatore che funziona nella realtà italiana, nella Lazio, ha funzionato nel Torino e poi però fuori da lì ha fatto fatica? Perché i numeri dicono anche questo, Michele? Beh, guarda, intanto le persone, oltre ai giocatori, crescono, quindi maturano. Adesso io credo che ci penserà Mancini, no? Mancini è un ragazzo molto intelligente. Lui infatti con Immobile, capendo che il giocatore stava crescendo e doveva crescere, ha usato molto bastone e carota. Adesso il giocatore, a mio avviso, ha acquistato una grandissima autostima, per cui io credo che ci troveremo con un grande centravanti agli europei. Apro solo una breve parentesi su prima, sui calci di rigori, permettetemi, perché stavo sorridendo, stavo pensando a Giordano, se durante gli allenamenti lui certamente non faceva le prove per prendere la mira e colpire la mano dell'avversario. Scusate. Sicuramente no. No, ma io credo anche che sia cambiata in generale, in assoluto, l'asticella di tolleranza, non solo per i falli di mano. Abbiamo visto tanti rigori in più, anche non necessariamente legati al fallo di mano, poi può piacere o no, ma è un po' la linea del calcio moderno, no Bruno? Che è quella di cercare di privilegiare il numero dei gol. Sì, è quello che dicevo prima, non è sintomo di grande spettacolo una partita 5-3 o 6-4. È il sintomo di grande spettacolo. Per cui niente, anche perché ci sono partite che vai avanti 4-0, poi fai due gol, ma la partita è già finita. Insomma, vediamo con recuperi anche fine campionato di 6 minuti il primo tempo e 6 minuti il secondo tempo. Cioè, mi sembra tutto veramente un grande circo. Sì, non ti è piaciuto molto, adesso, ma l'abbiamo capito. Vi chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, e poi voglio chiudere sul Napoli, altro grande amore di Bruno Giordano. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Io ancora la laurea da dottore non ce l'ho. Però il dottore immagino avrà parlato. Ho parlato col giocatore. speriamo che non sia nulla di grave. Mi stava spiegando Gattuso che sarebbe un problema all'osso dove si innesta praticamente l'adduttore, quindi è un problema paradossalmente più osseo che muscolare. Parlate col dottore, se no facciamo i danni, diciamo robe non esatte, non lo so, vediamo. Dopo 48 ore farà una risonanza, radiografia e vediamo. Allora, l'aggiornamento di oggi è che le condizioni di Insigne migliorano e quindi c'è speranza di poterlo vedere in campo nella partita di ritorno contro il Barcellona al Camp Nou sabato sera. Che sensazione hai, Bruno, sul Napoli che va a Barcellona? Beh, con Insigne un Napoli, senza Insigne un altro, anche perché non ha un sostituto naturale col suo modo di giocare, il regista avanzato. È il giocatore che nel momento della ripresa è il giocatore più in forma, mi sembra anche più responsabilizzato. Prima soffriva questa fascia di capitano al braccio, adesso mi sembra soprattutto nelle ultime 12 partite che abbia rappresentato molto bene. Per cui mi auguro che ci sia. Certo, Napoli dovrà fare un'impresa perché viene da un 1-1 la partita d'andata e deve per forza di cose o vincerla o pareggiarla con più gol. Chiaro, tifiamo tutti Napoli, anche se sappiamo la forza del Barcellona. Io credo che il Barcellona abbia 65% di possibilità, però insomma 35 non sono poche, perché Napoli soprattutto nel secondo tempo, visto contro la Lazio, ha fatto una buona partita con i ritmi alti, per cui mi auguro che possa mantenere questo e sperare in una giornata così di Messi e company. C'è anche, Michele, il Barcellona visto negli ultimi 2 mesi. Sì, è vero, non è lo stesso Barcellona, però poi quando si tratta di giocare queste partite il Barcellona è il Barcellona. Io aggiungo a quello che ha detto Bruno una carta in più che per me ha il Napoli, che è il suo allenatore. Parlavamo prima di calcio antico, no, ma non è che vogliamo fare i passatisti, né Bruno né io, però stavamo parlando di certi valori. Ecco, Gattuso è uno di quelli che questi valori li rispecchia e i giocatori lo sanno e lo sentono. Non ce lo dimentichiamo, al di là dei risultati, poi posizioni e piazzamenti, per me Gattuso è stato l'unico uomo che in quel momento ha potuto salvare una situazione a Napoli che era delicatissima, di tutti contro tutti. Ci voleva una persona non soltanto brava in campo tecnicamente, ma di cuore, di animo, e che potesse raggruppare un ambiente che si stava dissolvendo. Per cui quella carta in più è quella per cui i giocatori danno anche il 20-30% in più quando sono in campo, e per questo ritengo che un miracolo potrebbe accadere. Sì, ha fatto un piccolo grande miracolo Gattuso, lo ha detto anche lui Bruno, no? A tenere attaccata la spina in una squadra per 12 giornate dopo aver vinto la Coppa Italia, sapendo che il campionato non aveva nulla da chiedere. No, lì è stato bravissimo, oltre a quello che diceva Michele, anche perché sa e le ha giocate da protagonista come vanno vissute certe partite. Perché tu puoi essere anche molto bravo sotto l'aspetto tecnico-tattico, però se non hai mai calcato il campo in alcune partite, puoi avere delle difficoltà. Gattuso sa come si sta dentro lo spogliatoio, sotto al tunnel e soprattutto nel rettangolo di gioco. E questo può essere un grande vantaggio da parte di Gattuso rispetto a qualche altro allenatore. Sì, io direi che si è meritato definitivamente lo sbarco nel pianeta dei grandi allenatori, e tra l'altro è stato anche molto coraggioso, perché se l'è costruito di fatto da solo, anche accettando un accordo, quello col Napoli, che era tutt'altro che semplice, tutt'altro che scontato. Non era garantito ad esempio di riconferma dopo questa metà stagione, quindi bisogna dare atto a Gattuso di essere stato veramente molto coraggioso, oltre che molto coerente con le sue scelte. Inizia la sua carriera a Pisa e anche, se non sbaglio, in Grecia, no? Sì, insomma, sì. Non è che si è trovato la pappa fatta, insomma, no. Ci ha messo del suo, ha fatto la gavetta e giustamente viene premiato. Con una grande dote, l'umiltà. Sì, d'accordo. Che non è semplice trovare in questo mondo. Grazie a tutti e due, Bruno Giordano, grazie e Michele Plastino. Ciao Bruno, grazie a voi. Ciao Michele, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie a tutti e due. A proposito di aggiornamenti che riguardano il calcio, c'è un mese di stop per João Pedro, che sarà operato alla spalla destra. C'è Sanchez che entra nella lista UEFA dell'Inter, a differenza di quanto accade con Smalling e con la Roma. Dunque Inter che sta ancora cercando di chiudere in queste ore la trattativa con il Manchester United per potersi tenere Sanchez al di là della scadenza del prestito che scade alla fine della partita con il Getafe. Piero da Piacenza, Piero. Sì, la saluto. Eccoci, vai. Buon pomeriggio a tutti quanti. Vedete, i grandi uomini che facciano gli allenatori o qualsiasi altra attività facciano, si distinguono da un solo fatto: se quando ci sono cose che non vanno, prima di tutto cercano le proprie responsabilità e ammettono le proprie responsabilità. L'autocritica è una cosa fondamentale per essere grandi uomini, grandi allenatori, grandi in qualsiasi altro ambito. Ciò che manca forse a Conte, che continua invece a lamentarsi degli altri. L'altro fatto invece importante, visto la facilità con cui vengono concessi i rigori, sarebbe opportuno, per non falsare la graduatoria dei capocannonieri, che chi subisce il fallo o chi calcia e il suo tiro viene interrotto da una mano, da un braccio, sia lui direttamente, come avviene nel basket, a calciare il penalty, il rigore. Sì, non verrebbe falsata la graduatoria dei calciatori, se no è troppo facile. Higuain calciò 3-4 rigori quando Immobile ne ha segnati 14 e questo è un dato oggettivo. Poi c'è anche chi subisce un fallo e non è in grado di andare a tirare il calcio di rigore, e allora poi ci mettiamo qui a discutere se è un vero infortunio, se è un infortunio per favorire un compagno, la squadra. Io credo che vada bene così, e ci teniamo anche i numeri di Immobile e di tutti gli altri anche al netto dei calci di rigore. In un flash, Mauro da Brescia. Mauro. Sì, buonasera. Vai. Senta, io ho chiamato in quanto voi dite che l'Inter è migliorata e tutto, ma in realtà secondo me ha fatto molto male l'anno scorso, quindi quest'anno ha solo ripristinato il livello di decenza, ma in realtà no, non è che Conte ha fatto quello che doveva fare, ma secondo me è proprio appena sufficiente. Mauro, sul fatto che l'anno scorso Spalletti abbia fatto meno punti di quelli che doveva fare, sono d'accordo. Dopodiché 82 sono la miglior performance dell'Inter in campionato dal 2009-2010. E quindi in ogni caso c'è un valore aggiunto in questa stagione e c'è un valore aggiunto anche di Conte, oltre che del mercato dell'Inter. Ma la seduta è soltanto aggiornata, ne riparliamo domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Paolo Corleone in regia, Gianmarco Ferronato per i montaggi. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Grazie ragazzi, grazie, andate in vacanza, divertite perché ve lo meritate. Ok. Saluti. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.